Mi dispiace per voi, cari maestri dello sberleffo, ma stavolta la danza è un'altra, è cambiata l'orchestra, i musici e anche i ballerini, e non è più il tango col casché, ma un rock. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Talk show vergognosi, perché oggi c'è quinta colonna, quarto potere, questa gente qua che noi ci ricorderemo di voi, cari signori. Ballarò, ci ricorderemo di te, caro Ballarò, ci ricorderemo di Piazza Pulita, ci ricorderemo. E quando noi abbiamo votato, è stato votato in rete, la Gabanelli che non ha accettato, e Dio, è meno male, mi scappa un meno male, però è una brava giornalista, fa il suo lavoro. Poi il medico non ha accettato, e terzo c'è stato Rodotà. Che il grillo parlante non lo applaudirà. Caro Floris! Io ti prometto che ti faremo seguire noi da una troupe, troupe televisiva, la nostra troupe televisiva, e veremo a vedere dove vivi, cosa fai, quanto guadagni, non la diaria, guardiamo quanto guadagni tu che fai perdere 200 milioni alla Rai, guardiamo quanta pubblicità introi. La lista di proscrizione di Grillo nel weekend contro i giornalisti. Ora devo dire la verità, non cari ascoltatori, per difendere la categoria, sapete che non me ne frega assolutamente nulla. Però è curioso, si passa dall'editto bulgaro all'editto di Mascalucia, dall'editto in Bulgaria all'editto della Sicilia. Perché? Ma che gliene frega a Grillo di parlare dei giornalisti? Voglio semplicemente dire a Grillo che ha preso il 25%, lui dice avendo tutta la stampa contro. No, se anche fosse vero che ha tutta la stampa contro, allora come ha fatto a prendere il 25%? Sull'angelo vendicatore che incassa denaro contante, contando sul vostro. E poi, caro Grillo, caro io, cosa vuoi fare? Vuoi prenderti la Rai e cacciare via tutti? Modellare la Rai a tua immagine e somiglianza? Perché non dici quello che dicevi in campagna elettorale, che bisogna privatizzare due reti della Rai? Privatizzare due reti della Rai e resta solo una televisione pubblica. Dillo anche tu, Parenzo, se hai coraggio. Ma questo è chiaro, questo è evidente. Grillo va trattato ormai. No, come evidente che tanti... cosa? Evidente che è cosa? Evidente che Grillo va trattato. No, lascia perdere come... Grillo. Vuoi privatizzare due reti della Rai o no? Ma sì, ma perché pensi che siccome faccio un programma su... No, è una domanda, sei d'accordo o no? L'ho sempre sostenuto e penso assolutamente di sì, ma questo l'ho detto mille volte, non è che dico di no. Aspetta, aspetta lì, aspetta. Però dico un'altra cosa. Sì, non c'è tempo, c'è tempo. C'è tempo. Il tesoriere del PDL dice che Rizzo e Stella sono due tumori d'Italia. Dei mali d'Italia, mi scusi. Due tumori di questo paese. Mi ha nominato una delle persone che mi sta più antipatica al mondo. Sono due tumori della democrazia. Se mi querelano poi glielo dimostro perché. Rizzo e Stella, due tumori d'Italia, per qualche articolo scritto sul Corriere della Sera, articoli e libri importanti, per carità, due tumori d'Italia, caro Bianconi, ma che stai a di Bianconi? Ma tu l'hai mai visto in televisione Bianconi? C'è l'immagine di Bianconi? Sì. l'ho visto tante visto? Volte, sì. Ma certo. A chi assomiglia? Figura se ti viene in mente qualcosa col cervello in pappa che hai. Allergico a tutte le prediche. Però la notizia del giorno, caro Parenzo, è l'espulsione di Mario Borghezio dal gruppo euroscettico del Parlamento europeo. Per colpa mia, per un'intervista che ha rilasciato pienamente consapevole al settimanale Panorama. Allora ti dico subito una cosa, che è io difendo Borghezio fino alla morte su questa vicenda qua, non su quello che dice, ma sull'espulsione. A parte la cosa paradossale del gruppo euroscettico, cioè all'interno del del Parlamento europeo c'è un gruppo euroscettico, già questo è normale. Fa ridere i polli, no? No, fa ridere i polli il fatto che il gruppo euroscettico sia all'interno del Parlamento europeo. Beh, no, parlando anche noi intervistammo un inglese invece del gruppo euroscettico. Sì, ed è quello che ha cacciato Borghezio, ha fatto in il modo di cacciare Nigel Farage. Sì, il signore che è dietro la cacciata di Borghezio, perché è accusato di razzismo in patria. Beh, e dunque quello della bara. Ma tu ti rendi conto o no? Cioè è un signore, spieghiamo a chi ci ascolta, è un deputato inglese, sì. Si chiama Nigel Farage, che nel suo studio, quando noi lo incontravamo, sì, aveva una bara. Al posto della croce c'era l'euro. Aveva, esatto, una bara, bravo. E tu una che bara con l'euro. Questo signore ha diritto, questo signore ha diritto di restare al Parlamento europeo, al gruppo batte la pesca con la bara dentro l'ufficio e col simbolo dell'euro sopra, parlamentare europeo. Borghezio va cacciato dal gruppo per qualche frase detta sulla Chienghe o sul razzismo o sul meticciato, eccetera eccetera. Vi rendete conto o no? E noi nelle prossime ore pubblicheremo sul sito della Zanzara e sui nostri Twitter la foto dell'uomo con la bara che ha espulso Borghezio, perché è nel mio possesso, ho questa foto importante. Bene. E la pubblicheremo, amici ascoltatori della Radio 24, magistralmente, come dire, diretta da Fabio Tamburini. Vabbè, hai fatto il tuo solito lecchinaggio. Sì, questo abbiamo detto. La frase di Borghezio sotto accusa: ho assaggiato il prodotto locale quando era in Zaire, devo dire molto considerevole. Non paragoniamo il ministro Chienghe a una bellezza catanghese, alte, belle, profilo europeo, tutto un altro prodotto. La signora Chienghe avrà altre qualità, ma non certo il fascino delle catanghesi che ho conosciuto a Kinshasa negli anni 70. Vabbè. Mi sentirei responsabile se avessi creato un meticcio, è peggio di una bestemmia, non voglio dire che è contro natura, ma è una specie di oltraggio all'appartenenza alla propria etnia. Contro i meticci. Pensate se i nostri nonni avessero raccontato che noi ci lasciamo togliere i canti natalizi da una banda di cornuti islamici di merda. Detto con il massimo rispetto per gli imam, per tutte queste palandrane del cazzo che circolano liberamente, che organizzano terrorismo, attività sovversive che nessuno controllava in questo paese di Pulcinella. Allora, all'epoca il mio conoscente Mario, ormai lo conosco talmente bene che posso definirlo anche amico nell'accezione più vaga di questo termine. All'epoca era parlamentare europeo, nessuno però, chissà come mai, nessuno ha mai pensato di cacciarlo per queste frasi molto più pesanti di quelle che ha detto sul meticciato, eccetera. È tutto un problema interno lì, agli inglesi contro gli altri, eccetera. Alla fine mi dispiace che sia stato cacciato dal gruppo, però resta parlamentare europeo. Salvini la settimana scorsa ci ha detto che comunque non lo cacciano dalla Lega. Ma la notizia di questi giorni, Parenzo, su cui ti invito a riflettere, se tu conosci questa pratica, è quello che ha detto Michael Douglas, il signor Michael Douglas, non sì, so se hai letto. Sì. Signor Beck, perché inizia a ridere? Io ho già la risposta della signora Melissa P. La conosci la signora Melissa P, tu? Perché? Perché ti ha risposto? Hai una corrispondenza con la signora Melissa P? No, conosco. Sei geloso adesso? No, per carità, perché? Sei geloso? Il Cruciani geloso! Comunque vai avanti con la notizia di Douglas. Melissa P, figura. Ti dico la battuta strepitosa della signora Melissa P. Il mio cancro alla gola è causato dal sesso orale. Adesso non andiamo nei dettagli, il virus del papilloma umano, eccetera eccetera. Però la frase clamorosa, se noi non la vogliamo buttare in bacca, sì, la butteremo in bacca, perché poi sono cose serie, il cancro eccetera, no? Però Michael Douglas dice che il cancro alla gola, da cui per cui ha passato un sacco di guai, eccetera eccetera, è causato dal sesso orale. Beh, cioè dal famoso, sai cosa ha detto la signora Melissa? Dimmelo, dai, su, così finisci di rompermi i coglioni. Ma siete cretini con questa cosa del tumore alla bocca per il sesso orale? È un modo per farci smettere, non passeranno. Un modo per farci smettere cosa? Scusa, sono un po' adesso, oggi ho un po' per farci smettere cosa? Ma sei stupido, cioè il crucè. Cioè, per farci smettere cosa? Di trombare? Vabbè, dai. No, no, dai, dimmi, dimmi, adesso in questo. Dimmi! Sei completamente. È un modo per farci smettere. Certo! Ma Parenzo, lo pagate voi per stare in trasmissione? No, vabbè, ma farci smettere, non di trombare, allora, per farci smettere, per far smettere gli uomini cretini dalla pratica. Ma siete cretini con questa cosa del tumore alla bocca per il sesso orale, punto di domanda? È un modo per farci smettere. Riot, no pasaran, punto esclamativo. Vabbè, adesso in questo momento sono confuso, poi me lo spieghi, eh? Vabbè. Intanto è con noi Lando Buzzanca. Caro Lando, come stai? Ciao ragazzi, ho sentito tutto di Borghezio, ho sentito Grillo che sbraita continuamente, ho sentito te incazzatissimo. E mi piace molto, bravo, perché dici cose esatte e sincere. Vabbè, Lando, sincere. Grazie, però signor Buzzanca. Sì, perché dire signor Buzzanca? No, adesso io ho chiamato e siamo voi, vi stupirete, no, perché in una giornata come questa cosa da dire signor Buzzanca? Sì, è adesso, vero, uno potrebbe rimanere stupito, no? Alle 18:46. Chi è che ha detto spregiativo Buzzanca? È quel cretino di Parenzo, dimmi qualcosa, Lando, ti prego, dimmi qualcosa, ti prego. Di che cosa? Di Douglas? No, di no, Douglas adesso te lo lascio dire, perché tu sei un grande esperto di cunnilingus, o sbaglio? Eh? Ma di chi è che mi ha detto Buzzanca adesso? Il signor Parenzo, Parenzo, mandalo a fare in culo, Parenzo? Ti prego. Dimmi qualcosa, ti prego. È una persona intelligente, Parenzo, una persona che mi stupisce. Appunto, ma stupisce anche me ogni tanto. Allora, sei un esperto di cunnilingus o no? Beh, amore mio, il fatto di Michael Douglas mi dispiace molto, perché potrebbe essere o un pregiudizio, oppure ha trovato un'occasione sbagliata e ha pensato che potesse essere stato il male che lui ha vissuto. Ma ragazzi, diciamo la verità, dai. Siamo onesti. Sì. Nel cunnilingus sì. Si parla direttamente con l'interessata. Ma vi rendete conto? Bene, questa cosa qua va approfondita è seriamente. Un grande messaggio sexy, ardito, sentimentale che si fa alla donna. È come dire alla donna, all'amata, se io non vado in paradiso, se io vado in paradiso e non ti trovo, sì, io manco ci entro. Questa è una frase di Verga nella Cavalleria Rusticana. Ecco, il cunnilingus, sì, prima di tutto, non dà frutti scomodi. No, quello non sicuro. Non chiede protezione. Sì. E poi evita altre cose, però me le racconti. Sì. E vive un godimento etero, carne, spirituale, totale. Soprattutto per la donna, ma anche per l'uomo. Parenzo, anche lo so che tu, queste pratiche sei ormai non sei più abituato, però stai attento a quello che ti racconta Lando Buzzanca tra poco, dopo il traffico. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto sembra poesia. Guardiamo qua la 7, per esempio, che non so dove si annidi, perché stanno montando su, già preparando un servizietto a Piazza Pulita, che lo vedrete. Già, perché noi siamo disgregati, il movimento non c'è più, allora da Ragusa siamo divisi, siamo divisi a Siracusa, siamo divisi anche qua, cioè cercano di creare delle cose che sono incredibili. Non ti potrò sfiorare e ti farò. Siamo qui con Lando Buzzanca, che ci stava spiegando, caro Lando, come dire, no? La mistica, tutto. La bellezza, la bellezza del cunnilingus, diciamo la verità, è quando uno lecca l'organo genitale femminile, per non parlare di cose un po' più di cose astratte. Senti un attimo, tu sei diventato un esperto però di queste cose, no? Io avevo 12 anni, te l'ho detto prima, non l'hai sentito forse. Avevo 12 anni quando mi hanno portato da una prostituta, quelle più grandi, no? I ragazzi più grandi. Sì. E io la prima cosa che ho fatto, sono andato con la bocca. E perché? Vabbè, a 12 anni posso capirlo, a 12 anni posso capire, sì. 12, ma anche a 70 anni. Beh, a 70 forse anche per altri problemi, o no? Anche per altri problemi, però l'ho sempre... Ma no, no, naturalmente non lo fai mai con tutte, ma le selezioni, le donne, guardandole, allora ti immagini, sì, una vagina caruccia, simpatica. Adesso ci massacreranno dopo questa cosa, Parenzo, lo sai, sì. Beh, parlo di natura, è la natura. È la natura, sì, è la natura. La natura, assolutamente. Gambe, diciamo. Il signor Buzanca ancora sta dietro a queste cose adesso, basta. Superato, ma come adesso? Panza! Ma è matto lei, Panza! Io non leggo più le sue cose, i suoi libri. Ma non è Parenzo, non Panza. Ah, è Parenzo! Vabbè, Buzanca, ma che sei rincoglionito pure lei. Avevo... No, ma dico, alla tua età, anche Parenzo è un uomo importante sempre. Che a me è sempre piaciuto. Sì, ma manco lo conosci in realtà. Però no, scusami, no, conosco, Lando, Parenzo, Lando, scusami un attimo, ma non è tutta pubblicità quella che si è voluta fare il signor Michael Douglas? Ma forse avrà, come ho detto prima, avrà incontrato qualcosa che gli ha dato fastidio, ha pensato che fosse stata la causa del suo male. E invece, ma non, come fai a fare? È assolutamente... Ma tu hai paura adesso, dopo quello che è successo a Michael Douglas, hai un po' paura, no? No, no, no. No, continui imperterrito, sicuramente continuerai. Ma non me ne frega niente, ma secondo me è una cazzata quella di Douglas. Ma qualche medico, sai, qualcuno lo dice, Ma che di... Ma quando mai? Ma pure secondo me. Parenzo, secondo te tu... È come l'extrasistoli, guarda. Come l'extrasistoli, scusa? Sì, perché ti dico, e poi l'extrasistoli, io c'ho extrasistoli da sempre, sono quasi 78enne, fra 2 mesi faccio 78 anni e sono ancora vivo. Quasi come per Berlusconi cui... anzi più di Berlusconi hai, un anno, due anni di un più. Un anno più di Berlusconi. Comunque tu continuerai a praticare imperterrito il cunnilingus? Assolutamente, anzi io farò se Parenzo vuole facciamo una rubrica in una radio parlando di questa cosa. Hai capito, Parenzo? Sono esterefatto perché voglio dire, alla sua età Lando ancora ha la forza di pensare a questo. Io pensavo che la sua età ti tiene è la natura, ti tiene vivo. E certo. Ma io pensavo che dopo una certa età uno cominciasse, come dire, a leggere solo libri. Ma perché? Ma io ho letto libro da ragazzo, ho letto enciclopedie quando ero in accademia. Ho continuato a leggere. Scusa, Lando, Cunnilingus non me lo devi levare. Ecco, bravo. Com'è che ti sei soprannominato quando ti ho chiamato prima al telefono? Com'è che ti chiami il le? No. Io sono un leccatore. Ma no, ma leccatore, dai, su. Scusa un attimo, ma hai sentito di Berlusconi le accuse, le orge Bacchi, che la prostituzione... Ma non è cazzata, non è vero niente. Vabbè, come non è vero? Perché? Scusa, scoperà pure lui. Sì, ha fatto, ma fa le cose che fanno tutti, anzi, forse si diverte più di tutti, ecco perché lo odiano. Scusa un attimo, ma secondo te pratica... Di fare le cose che vuol fare. Certo, ma secondo te lo pratica il cunnilingus? Sì, c'è la bocca adatta, guardalo bene quando... Il primo adesso, piano. Non è che francamente non mi sono concentrato sulla bocca di Berlusconi per vedere se è adatta a queste cose. No, ma io mi è sembrato di vedergli un po' la bocca sporca una volta. Una roba pazzesca, piano. Guarda. Vabbè. Un po' sporca, un po' umida. Un po' umida, di umidiccia, umida. Mamma mia, ragazzi. Come siamo caduti in basso? No, non è vero. No, hai ragione, hai ragione. Siamo sempre in alto e il cunnilingus non c'è. Parenzo, non ti permettere di toccarmi il cunnilingus. Giornale radio. Ragazzi, siamo onesti. Nel cunnilingus si parla direttamente con l'interessata. Ma vi rendete conto? La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo a piedi. Io ho creato una schiera di sindaci, tutti sceriffini, i quali hanno portato il messaggio dei Gentilini. All'altro una botta nel braccio e poi all'altro. Prendila, schiacciala, schiacciala. Allora darò immediatamente disposizione alla mia comandante affinché faccia pulizia etnica dei culattoni. I culattoni devono andare in altri capoluoghi di regione che sono disposti ad accoglierli. Qui a Treviso non c'è nessuna possibilità per culattoni o simili. La zanzara è l'imprendibile insetto che le più volte non lo vedi mai. La cosa ridicola dell'espulsione di Borghezio dal gruppo parlamentare, a parte che è complicato spiegare alla gente l'espulsione dal gruppo parlamentare degli euroscettici, eccetera, eccetera, rimane parlamentare europeo. Io dico che anche le idee più estreme, caro Parenzo, hanno diritto di esistere. Io ero d'accordo anche con l'entrata in Italia anni fa, ti ricordi di quel filo nazista che diceva che le camere a gas non esistevano, no? Ti ricordi quello storico? Tu eri d'accordo, sì, anch'io ero d'accordo per dargli poi un fracco di legnate. Però. No, fracco di legnate mai, fracco di legnate mai. No, in quel caso lì c'è il per chi è antidemocratico e incita a teorie antidemocratiche filo naziste. E allora? Non si deve, stai calmo, non si deve poi stupire se quando arriva sul suolo nazionale gli arriva un calcio nel sedere. Ma tu sei un violento, No, no, no, io sono un pacifista assoluto, ma dico che se uno incita alla violenza e no, in quel caso non c'era nessuna violenza. Stai tranquillo. E declama teorie violente. Dico che non ti deve stupire nel caso gli arrivi un calcio. No, ma non hai capito niente, non c'entra niente. È la possibilità di esprimere le proprie idee, anche quelle più estreme. Quello, sicuramente. Basta, non ti devi poi stupire che se inciti alla violenza ti arrivi un calcio nel sedere. Oh, ancora questo incitamento alla violenza. Una cosa è incitamento alla violenza, una cosa è l'espressione delle proprie idee. Sono due cose diverse, no? Sono oggettivamente violente, no? Allora, la domanda è questa, cari ascoltatori: perché Borghezio, che era già parlamentare europeo, non è stato cacciato, per esempio, per frasi tipo, non lo so, mettiamone una qualsiasi, La Lega aveva indicato per tempo in Viale Jenner un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Solo la Lega! Solo la Lega! Nessuno pensava all'epoca di cacciarlo fuori. Adesso per alcune frasi sul meticciato, sulla Kieng, eccetera, viene buttato fuori. Alle volte si supera il limite. Ma non c'è nessun limite, era già stato superato secondo certi canoni da tempo. Tu, nella tua follia non hai neanche, come dire, ricordato, cioè che cosa significa l'espulsione dal gruppo? Significa che quel gruppo parlamentare lì, grazie molte, arrivederci, significa che quel gruppo parlamentare là non ritiene più utile avere tra i propri membri uno come Borghezio, il che è legittimo da un punto di vista del gruppo, perché no, non lo vuole più. No, ma lo stesso gruppo non ha storto mai il naso quando si trattava di altre frasi di Borghezio. Evidentemente c'è un momento politico particolare in cui Borghezio è diventato scomodo e lo hanno cacciato via, ma comunque titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. 18 anni al magnate Schmidt Heini, unico imputato al processo Eternit in appello. La multinazionale dell'amianto, colpevole di aver provocato 3.000 vittime tra morti e malati. Vertice al Quirinale per fare il punto sulle riforme istituzionali. E la prossima settimana il decreto per avviare il lavoro. In campo l'ipotesi di semipresidenzialismo alla francese. Restano resistenze nel centro-sinistra. Su riforma e intenzione di voto il sondaggio del TG3. Grillo boccia l'elezione diretta, la vuole Berlusconi per farsi eleggere duce. Il neo capogruppo Nuti ai dissidenti, dice le regole valgono per tutti. Al processo Rubi, nella sua ringa illegale di Berlusconi, attacca il tribunale. Diamo fastidio, i giudici sono prevenuti verso di noi. Poi chiede la soluzione del Cavaliere. La Corte dei Conti boccia la lotta all'evasione fiscale. Finora è stata ondivaga e contraddittoria e ci sono dubbi sul redditometro. È duro bilancio degli scontri in Turchia, un morto, 1.500 arresti, accuse di brutalità alla polizia e la protesta si sposta nella capitale Ankara. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Leggo oggi sul Fatto Quotidiano. Sonia Alfano, ex parlamentare europea dell'Italia dei Valori, a un certo punto contatta Bersani in modo riservato attraverso la batteria del Viminale. Siamo all'inizio di aprile. già ci sono i saggi, il tentativo di Bersani è praticamente fallito, anzi è fallito. Appena il segretario, cioè Bersani, sente il motivo della telefonata di Sonia Alfano, che cercava di dire a Bersani che c'erano 13-14 senatori grillini pronti a votare la fiducia per un governo PD 5 Stelle, PD SEL 5 Stelle. Qualcuno ci vuole attribuire la responsabilità di aver fatto fallire questo governo, Parenzo, eh? A noi. Come al solito non è letto un cazzo oggi, ma non c'è problema. Quando il segretario sente il motivo della telefonata, interrompe la comunicazione pensando a uno scherzo del solito Cruciani della Zanzara. Vecchia storia. Ma vecchia storia di che, se non l'hai mai letta? Vecchia storia di quando? Di come? Vecchie, dai, notizie vecchie, superate. Vabbè, non l'hai letta, allora stai facendo autoreferenziale. L'Alfano mi chiama, l'Alfano mi chiama, scrive Loris Mazzetti, autore della Rai. L'Alfano mi chiama per un aiuto, informo il portavoce di Traglia che la telefonata non è uno scherzo, insieme creiamo un nuovo contatto tra i due, poi la cosa non andrà in porto. Insomma, la notizia è questa: ci sarebbe stato un contatto tra l'Alfano, prova a chiamare Bersani, questa è la sostanza, e Bersani dopo un po' chiude il telefono perché pensa a questi due qua, a questi due personaggi che vi stanno parlando, no? A uno scherzo. È già accaduto con Zamanato, come ricorderai, no? Abbiamo creato un mostro. Lando? Sì. Allora? Ancora. Ma che c'entra Bersani col Cunnilingus? Ah, capire. Niente, guarda, io non lo so, eh. Ce l'ha, allora? Ce l'ha la faccia da Cunnilingus, non credo. Ma no, è un bel maschio, mi sembra. A me non piace perché non mi piacciono gli uomini. Un maschio piacentino, dici, no? Sì, è virile, un uomo virile. Purtroppo sì, così è comunista, però. E vabbè, però, che vuoi fare? Non si può avere tutto dalla vita, no? Non si nasce perfetti. Ma tu che hai votato, Lando? Come? Che hai votato alle elezioni? No, che ho votato? Berlusconi. Certo, è un amico mio. E beh, poi per me, sì? Per me, beh, ma la cosa naturalmente è assolutamente una cosa privata. Sì. Però. Per me è quello più socialista. Come più socialista? È più democratico. È più democratico dei democratici. Addirittura. Addirittura. Perché dici? Sì, perché dà ragione a tutti. Poi, è quello che è. Lui si rivela quello che è. Ah, Silvio è sincero, si dice. Quello che è. È sincero. Non nasconde niente. È sincero. Ragazzi, ha preso una cosa in faccia, in testa, che la poteva nell'occhio, poteva accecarlo, non l'ha manco niente, non ha lasciato perdere tutto. Ma tu ci credi a tutte queste storie di donne che vanno a casa sua, prostituzione? È un uomo maschio, macho. Quando uno è maschio, che può fare? Perché noi uomini, la differenza fra uomini e donne, sai qual è? Che la donna parte con il cervello prima e poi arriva giù. Sì. Invece noi cominciamo subito da giù. Lo so. Perché siamo animali, siamo più animali delle donne. La donna è la natura, la donna non è animale. Per cui tu ci credi a questa storia del femminicidio, che c'è questa strage di donne in giro, oppure sono tutte stronzate secondo te? No, non sono stronzate, però mi sembra che si faccia una campagna sterile, perché ragazzi, succede a tutti. Quando uomini che vengono ammazzati da lei, si fanno notizia così. Qua adesso si fanno le associazioni. Vabbè, sembra eccessivo. Eccessivo, dici, io perché cosa? Donna, sì. Ma infatti conosco un sacco di donne, sì, le quali dicono: non me ne frega niente, io faccio la mia vita, non voglio essere protetta. Ah, tu dici che non c'è bisogno, certo, di questa mobilitazione, no? Sì, mi sembra eccessiva. Cioè, leva un po' di carattere alla donna. Ma se una donna si veste in maniera così, non è che se la tira la violenza, no? No, può essere di sì e può essere di no. Ma che vuol dire? Non lo so dire. Però basta un calcio alle palle e se lo leva dai coglioni quello. Capisci? Ah, tu dici non c'è bisogno di... Vabbè, qualche volta c'è lo stupro, la violenza. Sta a vedere come vanno le cose, capisci? Poi, no, io sono sempre dalla parte delle donne comunque. Ah, beh, certo, non c'è dubbio. Sì, io Senti, comunque, vogliamo dire qualcosa di definitivo su questa questione Apparenzo? Di Michael? No, Apparenzo, su Michael Douglas e il cunnilingus, ti prego, perché qui la discussione è impazza. Apparenzo è un sostenitore, per carità, Apparenzo non è che dice nulla contro questa antica e nobilissima braccia. Cioè, non sei spaventato? Perché sono vecchio per stare, andare con le donne. No, ma Apparenzo è fatto... Ma non vecchio, sostengo che secondo me, io mi auguro che di arrivare intanto all'età tua, me lo auguro, perché con la vita che faccio non ci arriverò. Ma mi auguro di trovare la pace dei sensi, ma no? Quale pace dei sensi, ma perché? Sensi? Viviamo perché ci sono le donne. Dai, su. Ci viviamo per quello. Comunque. Viviamo per il sesso, la natura è quella che va riproducendosi continuamente. Lando, facciamo un appello, non abbiate paura. È stato fissato, non è fissato. Abbiate paura. Non secondo me manco la protezione bisogna avere. No, quello no, questo non si può dire. Perché quando la donna è tranquilla. Vabbè, ho capito, quello. Non devi andare con in giro allora, ecco, quello non devi fare. Non devi andare in giro a cercare così malamente. Però scusami, tanto la selezione con donne vere, con donne serie. Però scusami, Lando, vogliamo dire una cosa definitiva. Non abbiate paura di praticare il cunnilingus, cioè, no, perché il cancro è una puttanata, questa appunto, storia. Appunto, bravo. È una puttanata che Douglas non avrebbe dovuto dire. Forse suo padre non l'avrebbe mai detto, perché a me piacciono tutte e due, lui, Michael e poi Kirk Douglas, sono due personaggi straordinari. Ti abbraccio, a presto. Ciao, ciao, a presto, ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Vi saluto, ciao. Borsa. Sentite il tesoriere del PDL come se la prende con due giornalisti, deve essere proprio una fissazione. A me scoccia pure la difesa corporativa, mi dà un fastidio enorme perché non me ne frega assolutamente nulla, odio tutte le corporazioni possibili e immaginabili, cancellerei i tesserini, cose di questo tipo, lo sai benissimo Parenzo, però francamente qualche volta gli attacchi sono ridicoli, ci sono delle persone che fanno il loro mestiere, scrivono gli articoli, se una persona vuole contestare un articolo di solito ci sono i tribunali, ci si rivolge ai tribunali, si fa una causa per diffamazione, punto e basta. Non è che si può definire una persona un tumore. Due tumori d'Italia, Rizzo e Stella. Due tumori d'Italia, se il problema fossero Rizzo e Stella. Dei mali d'Italia, sono mi scusi. Due tumori di questo paese. Mi ha nominato una delle persone che mi sta più antipatica al mondo. Sono due tumori della democrazia. Se mi querelano poi glielo dimostro perché. Ci perpala. Riposare. Rizzo e Stella, due tumori della democrazia. Io della democrazia. Rizzo e Stella querelerei immediatamente, proprio anche solo per la goduria. Ma non vale la pena finire in tribunale, signor Bianconi. No, anche solo per la goduria. Intanto assomiglia a qualcuno. Andate a cercare voi che siete a casa, magari, non quelli che siete in macchina, tantissime che siete in macchina, tassisti, Bianconi. No, pure cercate lo stesso. Anche se siete in macchina, mentre guidate, sì, tirate fuori il vostro iPad. Lasciate il volante. Mentre siete. Sì, sì, beh, certo, specie se avete dei bambini a bordo. Sì. Consultate immediatamente con la radio a tutto volume e consultate immediatamente con serenità il vostro iPad cercando Bianconi, tesoriere del PDL, e diteci a chi assomiglia, vi prego, datemi una mano, non riesco ad arrivarci. Bianconi, tesoriere del PDL, a chi somiglia? Ivan da Roma, buonasera Ivan. Buonasera. Vada. Beh, innanzitutto bravi, bravissimi, basta, ho finito. Comunque sia, volevo dire solo due cose rapidissime. Sì. Una, io sono un piccolo giornalista, anzi grazie per l'intemerata contro le tessere, perché noi in provincia le sentiamo molto. Vabbè, comunque, poi... vabbè, basta, detto questo. E ne ho veramente le palle piene, posso dirlo, del fatto che anche fra le persone che ci conoscono, pubblicando una stupidata su Facebook per quello che riguarda, non so, il Movimento 5 Stelle, arriva sempre qualche grillino a dire: ma voi giornalisti senza palle non fate informazione. Volevo solo sfogarmi sul fatto di dire che questi grillini stalker su Facebook ci hanno rotto le palle, perché Facebook, vorrei dire a questi signori, non è un giornale. Mi piacerebbe che facessero questa differenza. No, ma a me non mi interessa la differenza tra Facebook e il giornale. Mi sono rotto le scatole anch'io, ma questo da tempo, di persone che ti devono dire cosa è meglio fare, quale tipo di trasmissione fare, eccetera, eccetera. Non sanno neanche per chi scriviamo, non sanno niente, ci attaccano così, non sanno neanche. Allora, c'è un signore che si chiama Fico, Roberto Fico, se non sbaglio, che è un senatore, che cos'è, deputato, senatore? deputato, sì, deputato dei 5 Stelle, quello napoletano, eccetera, eccetera, che ha detto i giornalisti vogliono tirar fuori il peggio da noi. E io rispondo, e allora qual è il problema? Non capisco qual è il problema. E volevo dire un'ultima cosa solamente, Grillo oggi ha parlato di P2, dicendo che c'è questo movimento piduista che vuole fare il presidenzialismo, no? Però non si ricorda del piano, del cosiddetto schema R, che nel 75 fu presentato, in cui si chiedeva anche il taglio dei parlamentari, per cui se è piduismo il presidenzialismo, è piduismo anche chiedere il taglio dei parlamentari. Vabbè, Cecilia da Sassari, buonasera. Ciao. Cecilia. Buonasera. Dica. Allora, intanto grazie perché mi fate divertire da morire. Vada, vada. Il fine serata sarebbe diverso senza di voi. Poi volevo dire due cose. Allora, intanto mi sono stufata di questa litania che Grillo arginerebbe la violenza, eccetera. Grillo è un grandissimo istigatore di violenza. Addirittura istigatore di violenza, sì, dai. Sì, sì, sì. Sia nei modi, mi ricorda i predicatori del Medioevo, i terribili, uno che sta sempre urlando, uno che... Predicatore sì, ma che istighi la violenza io non credo, Sì, sì, beh, guardi, San Bernardino da Siena... Addirittura. Alcune persone che erano... Intanto, Parenzo, prevale il nome di Mickey Rourke dopo il lifting su Bianconi. Cioè, Bianconi come Mickey Rourke, addirittura. Cioè, diciamo un Mickey Rourke brutto, cioè, oppure un Mickey Rourke grasso. Vabbè, Cecilia, concludiamo, su, poi... E poi l'altra cosa che volevo dire è che Grillo, io l'ho seguito, Grillo ha cominciato a salire nei sondaggi e tutto da quando la televisione, a modo suo, si è occupata di lui, quindi... Questo volevo dire. Vabbè, Alessandro da Padova, buonasera Alessandro. Buonasera Crociani. Dica. Voglio esporre la mia rabbia in un concetto. Chi è che ha deciso di non far sfilare la pattuglia tricolore e l'esercito in quel modo miserando che hanno fatto? È anni che si parla di questa roba del risparmio sulla parata del 2 giugno. A me francamente non me ne frega niente. Se bisogna fare una parata la si faccia. A me che ci sia la parata o si cancelli la parata è esattamente la stessa cosa. Non mi cambia la parata, non ci sono problemi. Il 25 luglio andava a mettere la corona al Mille Ignoto, è passata la pattuglia tricolore. Eliminiamo la parata, facciamo passare la pattuglia tricolore. Che sono queste miserande risparmi passati per economia e per rimedio all'economia italiana che va a rotoli? Non lo so, mi sembra tutta una cosa demagogica il risparmio sulla parata del 2 giugno. Siccome si deve dimostrare di essere parchi mentre poi si spendono un sacco di soldi altrove o si scialacqua capitale vario nelle regioni, negli enti eccetera, poi si deve dimostrare di dare un segnale, allora si risparmia su quattro armati che devono sfilare. Patetico. Paolo da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Posso intervenire? Sì, dica. Allora, ascolti, volevo dire al signor Buzzanca che ha detto delle cavolate e fa una disinformazione, perché io come infettivologo posso dire delle statistiche. Allora, il carcinoma della cervice nella donna è dato dall'HPV, di 16 e 18. Vabbè, adesso non entriamo nel tecnico, che vuole dire Paolo? No, il 90%. Il 90% del cancro dell'ano è dato dai papillomi virus, il 40% del pene è dato dal papilloma virus, il 40% della vagina dal papilloma virus e il 3-4% del cancro della bocca è dato dal papilloma virus, che si trasmette con i rapporti sessuali non protetti. Però di scusi un attimo Paolo, allora lei vuole dire che è vero che il sesso orale fatto dagli uomini nei confronti di una donna può provocare il cancro alla gola, come dice Michael Douglas? Giustamente sì. Bah, e anche alla donna può provocare il cancro della bocca se fa il sesso orale con l'uomo. Addirittura. Quindi la protezione sarebbe necessaria ed essenziale per evitare 1800 morti l'anno di cancro della cervice. Punto. Vabbè, poi, Paolo, papilloma virus. Ma lei che cos'è? Infettivologo, hai capito Parenzo? Sì. No, io a questo punto chiederei l'intervento, ci proverei a cercare la mia amica Melissa P e chiederei a lei conto di questo dibattito che hai giustamente aperto in una giornata politica come questa. Che è inesistente come giornata politica, peraltro. Una giornata politica inesistente? Beh, no, ci sono state le sparate di Grillo di Grillo sul capo dello Stato. Insomma, ci sono delle cose che sono accadute, quella sentenza incredibile di cui avremmo dovuto parlare lungamente, no? Sui morti per l'amianto, sì. C'erano temi. Invece sicuro. Lei ha deciso, sì. Come il suo solito, peraltro, sì. Come il suo solito, di dedicare questa puntata a questa vicenda. Ma io non dedico nessuna puntata, e sono 3 anni che stai con me, non hai capito nulla. Camilla da Modena, buonasera Camilla. Buonasera. Senta, dottor Cruciani, sì. Mi ascolti però, devo dire che voi due sì. Siete la nota stonata in sì. Tutta la Radio 24, nelle ore che fa, trasmette. Insomma. Lei ha perfettamente ragione. Allora, un attimo solo. No, ma lei ha perfettamente ragione, le dico subito, per cui se vuole continuare bene. Siete la nota stonata. Ma lei ha perfettamente ragione. Sento l'inizio della trasmissione, dopo pochi minuti spengo la radio. Ma lei ha perfettamente, allora, fa benissimo. Ha toccato il fondo. Ma lei manca solo, sì. Dottor Cruciani, manca solo che pronunciate nel vostro fraseggiare la bestemmia. No, quello. Voi no. Avete concluso proprio il repertorio. Benissimo, signora Camilla. Lei, ripeto, ha perfettamente ragione, al 100%. Perfettamente sì. Ragione al 100%. La posso capire, la comprendo. L'abbraccio fortissimo. Parenzo, abbracciamo fortissimo. No, io non l'abbraccio per niente, ma perché la vuoi abbracciare? Perché la voglio abbracciare fortissimo, che mi fa tenerezza questa signora che chiama da Modena, la signora Camilla, che ogni volta che si collega alle 18.30, poi ovviamente sono alle 19.46 e ancora qui ad ascoltare, eccetera, eccetera. Però le viene voglia dopo pochi minuti di spegnere, perché dice che abbiamo toccato il fondo e dice che qui c'è una musica diversa, giusto signora Camilla? Lei sente una musica diversa. Mi dica. Ascolti qua. Sì. Ci sono tanti argomenti che potrebbero interessare le persone. Sì, sì, me li dica lei. Avete detto che questo è un dibattito. Ma quale dibattito? Io odio i dibattiti. Io odio i dibattiti. Perché fate dibattiti? Ma quale dibattito? Io odio i dibattiti. Odio, ma non sopporto i dibattiti. Lo diceva ironicamente. Cara Camilla, l'abbraccio fortissimo. Zanzara capricciosa, la zanzara delusa. Beh, un grande ritorno alla zanzara. Comunque prevale ormai Mickey Rourke, eh? Bianconi, il tesoriere del PDL, che ha detto che Rizzo e Stella sono il tumore della democrazia, assomiglia a Mickey Rourke ingrassato, con tutti quei capelli lunghi, anche unti. Lava dei capelli, Bianconi. Grande ritorno alla zanzara, Pasquale Squitieri. Bella. Amico mio, come stai? Sono uscito da un tumore da un po', insomma, non male. Pure tu? Ma io quello vero, però. Ah, non quello di Michael Douglas provocato dalla... No, quello di Michael Douglas. No, quello di Michael Douglas è vero. In realtà le cause, lui crede che sia il sesso orale. Scusa, a te ti è mai venuto in mente quando fai quelle pratiche che ci possa essere quel tipo di conseguenza, caro per Pasquale? Carità. Per carità, se ci togli pure quello dalla vita, che ci rimane? Appunto. Scusa, ma tu quanti anni hai, Pasquale? 74. E ancora... No! Ancora, come dire? Con qualche aiuto, così. Anche tu, eh? Certo, se l'aiuto c'è, perché rinunciare? Capito, Parenzo, qui è tutta vita. Qui è tutta vita, impariamo tutte grandi cose qui. Saluta il regista Squitieri, maestro Squitieri, omaggialo. Maestro Squitieri, i miei omaggi, ma speravo che almeno tu fossi, come dire, ormai guarito dalla malattia della fregna. E invece... Ma per carità, prima di tutto non è una malattia. Le malattie vengono quando si pensa che quello che si fa procuri una malattia. Allora ti viene la malattia. Dicevo a un mio amico medico, non farla mai salire al cervello la malattia. E così ne sono uscito io, senza farlo mai salire al cervello. Certo. Io ci parlavo con il mio tumore, ci parlavo tutta la notte. Stavamo lui ed io, e lui era micidiale, molto cattivo. Ma piano piano l'ho addomesticato. Certo, 4-5 mesi di chemio non è che siano allegri, però li ho fatti. Scusami, capito? Pasquale, però Parenzo si riferiva a un'altra cosa, alla malattia di un altro tipo, cioè pensava di... lui dice... Il tema è che quella cosa faccia venire il tumore, è così, no? Sì, il tema, uno dei temi, adesso, insomma... da ridere, cioè, ma infatti, cioè, secondo te però... Quello che fa venire il tumore è pensare che quello faccia venire il tumore, mi spiego? Ah, ho capito, certo, perfetto. Se tu fumi pensando che ti faccia male il fumo, ti viene il cancro. Vabbè, adesso tu sei l'anti-spot contro il fumo, perché nonostante quello che hai avuto, hai ricominciato a fumare come se niente fosse, una cosa drammatica. Sì. Cioè tu fumi come un matto? No, come un matto, no, fumo 20 sigarette al giorno. Ma come? 20 sigarette al giorno all'età tua, dopo un tumore, sei impazzito? Ma io me ne devo andare, amico mio. Come te ne devi andare? Ma guarda, quando eravamo giovani noi, un uomo arrivato a 50 anni era vecchio decrepito. Cioè io sono della classe del 38, ma ti rendi conto? Io sono nato ed ecco, ufficiale della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, io ho vissuto tutto il dopoguerra a Napoli, quello che ho io nella testa, nei rioni, nei quartieri napoletani. Sì. Soltanto malaparte con la pelle è riuscito. Ma che vuol dire che te ne devi andare? Che vuoi morire? Sì. Ma come vuoi morire? Pasquale, scusami. Chi c'è di male? No, per carità. Ma no, io non voglio morire, scusa. Ma come diceva Euripide, si vive per morire o si muore per vivere. No, ho capito, però tu arrivata a questa età dici nonostante il fatto di aver superato questo, alla fine vuoi morire, dunque fumi e chi se ne frega. No, aspetto con tranquillità, non è che io voglia, in quel senso, che deve venire. Per cui? Eppure da tanto che doveva venire, ne ho passate tante, altro che quello. Per cui te ne freghi. Sì. No, no, attenzione, Giuseppe, perché è peccato perdere un colloquio con te. Sì. Il problema è che la società occidentale, tutta quella che io conosco, vive nel terrore della morte. Vabbè, tu hai gioco facile a dire così, sei arrivato comunque all'età che... No, io non ho gioco facile, io ti dico tutto quello che vedo intorno a me, tutto quello che vedo negli ospedali, nelle cliniche, nelle cose, di gente novantenne, traboccante, che si fa pungere, si fa iniettare roba, si fa per sopravvivere. Noi credo che la nostra sanità vada tanto male, perché io non ho mai visto un numero di malati in un paese, ma è una cosa spaventosa. Cioè, noi abbiamo una grande, noi nasciamo con una grande, questo forse è un fatto che ci viene dal cattolicesimo, sì. con una grande paura di morire. Ma perché? Scusami Pasquale, dimmi un attimo, se tu, c'è un dibattito in questi giorni, dibattito, parola orrenda che ripeto, ma se sei in una situazione di grande sofferenza, andresti, che ne so, a farti il suicidio assistito in Svizzera? Ma di corsa, non c'è bisogno di andare in Svizzera, lo farei qui. Cioè ti faresti ammazzare da qualcuno che conosci? No, mi ammazzerei da solo, perché no? Cioè non c'è niente di sconvolgente. Cioè che faresti? Hai pensato qualche cosa? Mi piacerebbe buttarmi nel mare e scendere fin giù e farmi mangiare dai pesci, essere utile fino all'ultimo, almeno sono carne per pesci e non per verme. Ma scusa, questo è interessante, scusa, ma avresti il coraggio secondo te? Perché poi a dirlo è facile, a farlo poi è un'altra cosa. Guarda, c'era sempre quel tuo amico, anzi amico Nietzsche, amico di Davide, che diceva l'idea del suicidio allontana la morte. No, è vero. Se tu pensi di poterti suicidare e quindi interrompere quando ti pare, allontani la morte. Però Monicelli lo fece, per esempio, no? Ma sì, ma in quella condizione l'avrei fatta anch'io. Se io fossi arrivato nella condizione di Mario, l'avrei fatta anch'io, anche prima, per la verità. Dunque tu sei a favore dell'eutanasia, di queste cose qui? Sì, l'eutanasia è un gesto di restituire grande dignità alla persona che è ridotta oramai al di là del bene e del male. Parenzo, quindi... ti fa contento questa cosa, Parenzo? No, ma ha ragione, io voglio dire, ha perfettamente ragione il maestro, ma io dico di più, forse sarà d'accordo con me. Il suicidio è la più alta manifestazione della gioia della vita, cioè hai vissuto così bene fino a un secondo prima che per non avere, che per mantenere quel ricordo straordinario che è la vita, ti sei ucciso. È meraviglioso. Io ti dico, anche se non che tu non abbia vissuto così bene, ma che tu abbia vissuto, già è una cosa di grande prestigio, essere riuscito a vivere in un mondo, perché Davide, io 10 anni fa ho fatto per la RAI insieme a Fulvio, ho fatto per la RAI Geografia della fame, ho fatto il giro del mondo che ha fame, un programma spaventoso, ho visto che cosa accade nel mondo. Di gente, ma quale fame? Io ho visto che cosa succedeva in India, che cosa succedeva in Brasile, i meneios terrori, la gente venduta, pensa, noi uscivamo a San Paolo, uscivamo dall'albergo, io ho portato i miei figli con me per girare questa roba, uscivamo dall'albergo e trovavamo i ragazzini morti nell'immondizia, chiamavamo la polizia e tiravamo fuori questi ragazzi di 13-14 anni che non avevano più occhi. Non avevano più cuore. Senti Pasquale, ma lo faresti tu a parte che adesso manco ti andrà, e come se dovessi fare un film su Grillo, come lo faresti? Ma sai, il fenomeno Grillo è un fenomeno, come posso dirti, che ne so? Di agonia della politica. Addirittura. È un fatto agonico. Io ho conosciuto Grillo tanti anni fa, eccetera. Quando l'hai conosciuto tu? Quello che fa lui, guarda, io sono stato senatore della Repubblica, sì. E quando mi sono presentato dovevo fare i comizi, no? Sì. Allora c'erano ancora i comizi, c'era il proporzionale, eccetera. E io mi rendevo conto che dovevo stare molto attento a quello che dicevo, perché una sera ho fatto un comizio a Salerno e dopo il mio comizio hanno bruciato mezza città. Vabbè, allora sì. Che vuoi dire? No, tanto che mi chiamò il prefetto, mi disse: scenda lei, faccia qualcosa. Dobbiamo stare molto attenti a quello che diciamo, perché quello che dice Grillo è facilissimo da accettare. Lui dice: questo non va, questo non va, questo è una merda, questo fa schifo, questo fa cosa. In un paese in cui si suicidano gli imprenditori, in un paese in cui si scappa, dal quale si scappa, questo fa effetto. Cioè, tu dici che istiga in qualche caso al suicidio? Tu mi devi proporre, caro Grillo, un progetto politico. Vabbè, lui dice serio. che ce l'ha, ma viene boicottato, la Rai lo boicotta. Non ce l'ha. Scusami Giuseppe, ma se ce l'avessi avuto non avrebbe fatto la stronzata di non andare al governo. Col PD. Un attimo solo, che ho la pubblicità e torno subito. 800 24 00 24. Pasquale Squitieri, un mito, una leggenda, con noi anche dopo la pausa. Guardate, è ovvio che se Silvio Berlusconi, salvo che non lo si ritenga un pazzo, ha parlato diffusamente in un pranzo istituzionale di Ruby, è evidente che aveva un'assoluta, totale convinzione che la ragazza fosse egiziana. Ma quale collegamento col presidente egiziano? Ancora con sta storia di Ruby, dai, su! Mamma. Ma è controproducente questa difesa su Ruby, no? Su Ruby nipote di Mubarak. Vabbè, ma non devo essere io a insegnare il mestiere ma ormai, scusa, non è possibile. Hanno come dire, abbracciato quella linea difensiva lì, e che non è che puoi cambiare improvvisamente. Dice, no, era la nipote di Tony Blair, in verità, o di Kemal. Vabbè, ma basta non ripetere le cose. Senti un attimo, senti comunque un attimo. Guarda che oggi sarebbe una puntata tutta da dedicare a questa straordinaria rivolta di Istanbul. Senti, però non mi rompere i coglioni però su queste cose qua. Cioè, io vorrei, scusa, un'analisi, potremmo chiamare Bernardo, sì, Valli. Non mi rompere i coglioni per davvero, voglio risentire un po' Grillo. Non mi interessa, non andiamo in televisione. Non è una giornata da approfondire. Non mi interessa, sì. Noi non andiamo in televisione, la occuperemo la Rai, Grillo. La gente da casa si confonde come un idiota, è questa la televisione. A meno che non sei tu, noi non andiamo in televisione, noi occuperemo la televisione. Ma cosa occupi? Occuperemo la televisione. Cosa occupi? Contro la Gruber. Sentilo contro la Gruber. Tu sei come una pietra. La 7 svenduta. Svenduta. È andata dalla Gruber. Questa incredibile donna. Non dico niente. Pensate cosa vede. Basta che io dico il nome, voi pensate quello che ci mettete dietro. L'aggettivo. No! No, no, non fare così, non si dicono queste parole. Ha detto intelligente, non ti permettere mai più. Cioè, verrebbe da domandarsi, ma cos'è che va bene a Grillo, no? Perché la Gabanelli no, perché a un certo punto ha detto quello che pensa e perché ha fatto un'inchiesta sui 5 Stelle. Rodotà nemmeno, adesso faremo i conti anche con Rodotà, in che modo non si capisce, perché ha fatto un'intervista al Corriere della Sera in cui ha detto che fa male Grillo a dare la colpa agli italiani. Ma cosa va bene a Grillo? Solo se stesso, forse? Il che, va bene, però... È complicato prendere il 100%, Se tu sei gelosa più di me, scappo sotto al letto, non parlare, non gridare. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura. Oh, ancora un Borghezio, dai, perché il giorno dell'espulsione di Borghezio dal gruppo al Parlamento Europeo vogliamo dedicarlo anche a lui, una dedica, una piccola dedichina al signor Borghezio, eh. Impossibile, alte protezioni, ruffianeria di Stato, leccaculismo diffuso, no, bigottismo universale, solidali, sono moderati, moderati un cazzo! Le braccia. Poi mi punge. Beh, siamo al mito qui, Parezzo, siamo al mito. Questo appartiene all'archeologia ormai. Battendo, erano... battendo i pugni, no? Moderati! Moderati un cazzo! Moderati un cazzo! Detto con il massimo rispetto, poi sempre bisogna finire, sempre detto col massimo rispetto. Squitieri, a lei le fa schifo uno come Borghezio? Più o meno sì. Ah, le fa schifo, le fa orrore, eh? Sì, sì. Cioè, lo vorrebbe cacciare dal consesso civile. No, però. Io vorrei proprio eliminarlo fisicamente. Ah, addirittura, fisicamente. Sì, sì. Cioè, gente che dice, per esempio, delle cose tremende, come ha fatto a me a Panorama, sul numero di Panorama di questa settimana, motivo per cui è stato cacciato, ha detto delle cose incredibili sui meticci. Cioè, se avessi creato un meticcio è peggio creare un meticcio. Scusa, Giuseppe, ma c'è stato un processo di Norimberga, no? Sì, certo. E sono finiti impiccati quelli lì. Sì. E allora bisogna ritrovare un po' di giustizia sociale. Sì. Qua ti dico una cosa che prima avevo tentato di accennare. Grillo sì. ha realizzato quello che non è riuscito a Toni Negri. E ti spiego perché. Io sono amico di Negri da una vita. Sono stato pure un anno in carcere con lui. Vabbè, non è proprio allora, un pacifista, Toni signor Negri. No, non è un pacifista, per carità. Però Toni Negri voleva un partito nella clandestinità. Sì. Un movimento. E che cos'era questo? Un partito che prometteva il suo voto, 300.000, 400.000 voti, a qualsiasi parte politica, purché realizzasse quel progetto. Allora? Questo era l'inizio del perché ti ricorda Toni Negri? Perché è un cattivo maestro? Perché Toni Negri faceva una distinzione molto importante fra movimento e moltitudine. Vabbè, è complicata qui la storia. Dai. No, è semplicissimo. Il movimento sono molte persone che ideologicamente vogliono una cosa, no? Movimento fascista, movimento comunista, movimento religioso, eccetera. Certo. La moltitudine sono molte persone, ognuna delle quali pensa a se stessa, ha una propria ideologia, che però hanno un fine unico. Buttare giù la Bastiglia, per esempio. Una volta buttata giù la Bastiglia, poi litigano tra di loro e si ghigliottinano tra di loro, perché e questo è il movimento di Grillo, non è un movimento, è una moltitudine. E allora? E lui questo adesso comincia a capirlo, perché sono contro di loro, tra loro stessi, si beccano tra di loro. È finita così, come in un pollaio. Ah, è finito in un bordello. Se fai la fine delle Brigate Rosse oppure sparisci, sei l'uomo qualunque, il qualunquismo. Ma tu ti aspettavi qualcosa da Grillo? Sì, mi aspettavo un gesto di arroganza molto forte, andare al governo con il Partito Democratico, andare al governo, rompersi le corna nella politica, che è una cosa schifosa. Certo, rompersi le corna. Sì. Rompersi le corna e dimostrare, ho fatto bene oppure ho fatto male, vado a fanculo. Ma tu chi hai votato, Pasquale? Io ho votato per Berlusconi, ovvio. Ancora? Ma stai scherzando, stai scherzando. Qui non è che vince Berlusconi, sai perché si vota Berlusconi? Perché? Per odio verso il Partito Comunista. Vabbè, ma non esiste più. Berlusconi, non c'è più. Berlusconi vince, è il Partito Comunista che perde. Ma non c'è più. Noi siamo cresciuti con il Partito Comunista, la mia generazione. Ma non c'è più il Partito Comunista, Pasquale. Era un partito che metteva paura, era un partito che ti proteggeva, era un partito che portava avanti delle iniziative, era un partito formidabile, che aveva un unico disastro, i sindacati, quelli sono quelli che hanno fottuto l'Italia. Ah, quello non c'è dubbio. No, ma noi avevamo un Partito Comunista fatto da gente seria. Vabbè, ma ho capito, ma tu ancora oggi hai paura del Partito Comunista e voti per Berlusconi? Paura. Appunto. Ma stiamo scherzando. Io vedo che il comunismo che poteva rigenerarsi con Bettino Craxi poteva veramente andare verso una socialdemocrazia. Ma perché hai votato ancora Berlusconi? Spiegami, Pasquale. Perché? Perché detesto Bersani. Ah, perché detesti Bersani, sì. Sì, perché ha distrutto un partito. Ma che è sto PD con mezzi democristiani, socialdemocratici, socialisti, strastroni. Il Partito Comunista era un mito, tu forse sei troppo giovane per ricordarlo. No, ma lo so. Ma tu sei arrivato con Berlinguer, ma noi eravamo contro gli altri. Poi dall'altra parte c'era De Gasperi, cazzo. Aspetta che non ti sento più, Pasquale, che è successo? Come? Che vuoi fare? Ah no, adesso ti sento meglio. Hai capito? Noi, la mia generazione era abituata a grandi leader. Comunque torniamo, scusa, tu un attimo Pasquale, ma veramente tu impiccheresti Borghezio? Sì, dici, in alcuni casi è meglio... Sì, eliminazione fisica, non c'è niente di male, perché il suo discorso è talmente violento, sì, che non può che ricevere in cambio violenza. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma ce l'hai il filmato del processo di Norimberga? Sì, ce l'ho. Se li vai a prendere uno per uno, nessuno di loro ha ammazzato qualcuno, per carità. Hanno detto, hanno scritto, hanno ordinato, hanno sollecitato, e intanto morivano milioni di persone nelle camere a gas, dovunque. Quando tu facevi all'inizio della trasmissione un accenno a Irving, perché Irving è quello Irving, come no? Irving, sì. Ma Irving si è fatto 4 anni di galera in Germania, in Austria, per questo scherzetto. Certo, si è fatto. Io sono contrario alla galera per questi. È giusto che tu hai un pensiero libero, va bene, secondo me, poi Irving è nel libro, perché li ho letti i libri di Irving. A te ti sta sulle palle il fatto che Borghezio odi il sud, questo è il punto. No, ma lui odia tutto quello che non è lui. E poi quando tu fai un discorso politico, tu devi rientrare, come faceva Andreotti, che in Senato aveva l'applauso di tutta l'aula quando parlava. Tu devi entrare nello specifico politico, tu devi usare un linguaggio settoriale preciso, tu non puoi fare lo stronzo, non puoi dire cazzo, culo, ma no, tu devi esprimerti politicamente. Ti danno fastidio gli omosessuali? E dimmi perché. Hanno dei livelli di potere, hanno le industrie. Ho capito. Ti spiego, no? Io Pasquale, ti abbraccio fortissimo, a presto. Ciao, ti cerco. Sì, ciao. Sta qua il matto. Ciao. Ti stava ascoltando. Pubblicità, torniamo subito. Sono moderati un cazzo. Non mi molesta il moschito. Allora, oggi Mario Borghezio era ospite di Barbara D'Urso, puntata evidentemente registrata, perché non proprio in quei minuti veniva espulso dal gruppo parlamentare europeo degli euroscettici, chiamiamolo così. E insomma, è sembrato a tutti strano che poi non si fosse parlato di quello, ma lasciamo perdere questo argomento che non interessa a nessuno. Ha detto alcune cose sull'intervista rilasciata al sottoscritto e al settimanale Panorama. Sentiamo. È il giornalista è Pablo Cruciani. Sì, che è un giornalista corretto, però mi pare che nella titolazione, io non ho avuto tempo, sì, ci sia un errore fondamentale. Intervista senza rete tema... è un razzista che non vuole sentirsi chiamare così. Sì, no, prima di tutto perché non lo sono, l'ho dichiarato e l'ho dimostrato in molte occasioni, se volete ve lo dico. Nell'intervista c'è una correzione da fare, cioè mi si attribuisce una frase critica verso i metici. Io non ho mai parlato nei confronti delle singole persone. Ma posso leggere questa cosa? Domanda e risposta, così lei può replicare. La mia dichiarazione riguarda il meticciato. Non mi molesta il moschito. Beh, adesso per carità, Mario, bisogna anche essere, mi rivolgo a te così in maniera diretta, sono sicuro che ci stai ascoltando, no Parenzo? Alcune affermazioni bisogna anche però sostenerle, non è che si può sparare o si può esprimere la propria idea e poi dire no, parlavo di meticciato e non di meticci, che differenza c'è? Cioè, è la stessa cosa, a parte che adesso non mi ricordo bene il passaggio, ma è tutto registrato ovviamente. Oltre alle malattie mi sentirei responsabile se avessi creato un meticcio, cioè, questo è, cioè, che però differen- ha riconosciuto l'impianto dell'intervista, quindi. No, ma non è questione di impianto, è che è quello che pensa, ma ha diritto di dirlo. Se gli stanno sul cazzo i meticci, se gli stanno sul cazzo i meticci per mille motivi, per motivi ideologici, perché pensa di non, cioè, ma sono affari suoi o no? Tu dici non ha diritto a stare al Parlamento europeo, ma bisogna vedere se c'è gente che lo vota, avrà diritto o no? Cioè, ma io ho detto no, qua non confondiamo, non ho mai detto che non ha diritto di, no, questo non ho mai detto. Tu dici che il gruppo ha diritto di cacciarlo, sì, il gruppo cui appartiene ha diritto di cacciarlo. È normale che il gruppo che ha una propria formazione, che delibera a maggioranza, tutte le ragioni, è nel suo diritto dire non lo vogliamo più tra i nostri membri. Ma voglio dire, no, ma ho capito perfettamente, ma non c'è dubbio, non bisogna vedere da che pulpito Parlamento europeo, viene la predica, perché il signore inglese che fa la predica a Nigel Farage, signor Nigel Farage, quello che ha la bara nel suo ufficio la bara con sopra l'euro. E oggi ha detto che che Borghezio è ripugnante per quello che dice, di un razzismo ripugnante. Ma è una querella loro, non è questo allora? Il tema. Cioè loro hanno diritto a espellere e a tenere chi gli pare. E si vede che ritengono non rappresentativo per le frasi dette sull'immigrazione Borghezio. Sarà un diritto, non è neanche in contraddizione Nigel Farage. Vabbè, fammi sentire un altro passaggio di Borghezio. Io non capisco perché... E per questo che va chiarito, ma vedo che nel testo, mi pare però che nel titolo ci sia la frase i metici. Io non ho mai, l'ha pronunciata Cruciani, io ho parlato di meticciato, quindi parlo di una cosa in astratto, mentre nei vuole confronti... Vuole confrontarsi con Carabue che dice... Sì, voglio solo chiarire bene, mentre nei confronti delle persone... Però veloce, nei confronti dei metici non ho alcuna preclusione, come no, verso i cinesi, verso i... E anzi, devo dire che nell'ambito delle mie amicizie più strette, io ho due amici strettissimi, tra l'altro tutti e due vicini a me anche politicamente, che hanno tutti e due dei bimbi maschi nati dall'unione con persone di diversa etnia. Moustique, mon vieux, tu e poi? I meticci sono un obbrobrio, dice Cruciani. Sì, il meticciato inquina la differenza fra le etnie. E poi le dice, ma questo è razzismo, e lei dice, io me ne fotto. Sì, questo lo conferma. Me ne fotto perché dire queste cose non è razzismo, se fosse razzismo lo condannerei, perché io sono decisamente non solo non razzista, ma antirazzista. Non mi moleste moschi. Vabbè, insomma, conferma tutto alla fine, cioè sì, ho detto queste cose, per me non è razzismo, ma infatti secondo lui non è razzismo, è un'altra cosa, si chiama differenzialismo, non so, beh, insomma, sarebbe troppo complicato spiegare, abbiamo il traffico, poi torniamo con voi, Silvano da Cremona, Alice da Torino, Carmine da Salerno, Donato dalla provincia di Varese, Massimo da Ancona, basta parlare di Borghezio. Quando la zanda rita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy estanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno. Silvano da Cremona. Buonasera. Dica. Allora, io volevo collegarmi ancora a quella ricetta di quel tipo che si faceva passare i pori con il... Ma no, basta con queste cose, su. Basta, però no. Io dicevo che io ho un altro rimedio simile a questo, cioè naturale, che nasce dalla donna, no? Perché cioè la donna è una cosa pazzesca, cioè ha delle cose che noi uomini non possiamo avere. Non ho capito bene, scusi. Allora, tu praticamente, se puoi, se hai la possibilità di avere a disposizione una vagina di una donna, no? Che io... Che però è meglio chiamare tupina, perché vagina cosa vuol dire? Cioè bisogna chiamarla tupina. Lei ha bevuto, mi sembra, No, allora, tu fai così, praticamente dentro, nella tupina delle donne, no, ci sono dei microorganismi che riescono a neutralizzare la carie. Questo ovviamente, cioè non è che... Cioè lei passa all'eccesso adesso, non provoca il cancro, come dice Michael Douglas, ma in realtà curativo. È curativo. Vabbè, ma dipende lui cosa ne faceva. Bisogna vedere, però io sono sicuro, cioè in che senso, che scusi? Bisogna vedere come lo utilizzava lui, no? E quindi, cioè, io ti dico che praticamente ogni 5 giorni, se tu fai il trattamento, secondo me... Ma quale trattamento? Vabbè, ho capito, cioè se hai lì, se sei con una donna e hai lì la possibilità di... Parenzo, vuoi dire qualcosa a questo signore che pensa? No, ma voglio dire, lei è uno straordinario, si fa per dire, ovviamente, maniaco. Ma cioè, no, lei chiama alle 20 e le cose naturalissime che te devi imparare. Ma scusi, ma lei chiama, ma le cose a casa sua, ma lo so che sono naturali, ma perché otterrai due vantaggi facendo una cosa ma sola? Ma perché viene a dire in radio ste cose? Ma faccia i comodi suoi ma a casa sua, faccia. Oggi bisogna tornare indietro, bisogna cercare e analizzare scientificamente queste cose. Magari dentro nella vagina delle donne ci sono degli anticorpi bestiali, ma questo chi gliel'ha detto a lei? Ma chi gliel'ha detto a lei? Ma chi gliel'ha detto a lei? Intuitivamente. Ma intuitivamente di che? Ma intuitivamente di che parla? Se uno prova e dopo se uno prova e vede che se tu entri in contatto con i microorganismi, sì, chiamiamoli, non so, la flora vaginale, io non so come si chiamano, e con la bocca, con un dente cariato, il dente che duole poi passa per, ovviamente per 5 giorni. Ma quale? Tanto. Ma che sta dicendo Silvano? Adesso è diventato pure un dentista. Lei che mestiere fa lei? Ma io sono imprenditore edile. Imprenditore edile, adesso faccia l'imprenditore. Mi scusa tantissimo questa cosa. Ma faccia l'imprenditore edile, non si occupi di come curare i denti. I complimenti. Come curare dico, i denti con le... C'è un leggero miglioramento. Ma quando mai, Silvana? Alice da Torino, buonasera Alice. Guardi, capito il fagiolo perché sono un igienista dentale. Allora? Niente, volevo dire che non è una stronzata quella che ha detto Michael Douglas, ma è la pura verità. Ma dai, su, Alice! Esiste un virus che si chiama papilloma virus, ce ne sono 100 tipi, dal più buono al più cattivo, e anche quello delle verruche, che è quello che fa venire il tumore alla cervice, all'utero, e quello che fa venire il tumore al pene, fa venire il tumore all'ano, fa venire il tumore in bocca. Sì, d'accordo. Papil- questo... In più c'è uno studio che è uscito proprio 6 mesi fa su Delta Tribune, sì, non più so, di 10 anni, lo so. Che ha dimostrato che c'è una netta correlazione tra chi pratica sovente con il lingus e anche la fellatio, cioè anche il pompino è penalizzato in questo, certo. E la presenza di papillomi virus in bocca. Una netta correlazione soprattutto a chi lo pratica a persone spesso diverse, perché comunque i maschi sono portatori sani del papilloma virus nel 90% dei casi, non lo sanno perché nessuno va dall'urologo finché non ha problemi alla prostata. E il papilloma si passa proprio, ecco perché, così come bisogna fare sesso col preservativo, bisognerebbe fare anche il pompino, il cunnilingus con il preservativo femminino e il preservativo da uomo, scusi, ce ne sono di varie forme. No, però, certo, non c'è dubbio. Allora, Alice, partiamo, lei come lo però, fa innanzitutto? Cosa dice? Lei come pratica, se pratica questa... Ma io devo dire la verità, pratico il pompino senza preservativo. Senza, sono sincera, ho avuto il papillomavirus all'utero, che grazie a Dio mi è andato via. Ma causata, scoperto, secondo lei ho dalla... Scoperto, sì? Ho scoperto da lì a soli 18 anni che c'era questo virus che si poteva prendere, in realtà anche usando il preservativo, purtroppo. Certo. Parenzo, sei interessato? Ho scoperto che esiste, no, la prevenzione. No, ma voglio dire, hai trasformato questa ottima trasmissione preserale in un programma... Volevo solo dire ancora una cosa, prego, potete prego. Dire tutto quello che volete, però il fatto è che non è necessario per forza praticare col preservativo e col femminino, il cunnilingus e la fellatio, però è anche vero che una buona prevenzione, ossia andare ogni 6-12 mesi dall'igienista, dal dentista, adesso lei sta facendo, pubblicità. No, è il mese della prevenzione del tumore in bocca, perché ci sono 3500 Alice, casi di tumore l'anno nuovo. Stia tranquilla, stia calma. Stia calma, c'è il lavoro lo stesso, c'è il lavoro lo stesso. È una stronzata, ma trova lavoro, un'ottima informazione. Vabbè, trova lavoro lo stesso, non si preoccupi, arriva gente da lei lo stesso, senza bisogno di fare pubblicità per radio agli igienisti dentali. Scusi un attimo, cara Alice, ma lei come fa a essere sicura di questo legame tra il cunnilingus e il sesso orale e il tumore? Non ho capito niente. Come fa a essere sicura di questo legame? No, io non ne sono sicura, ci sono degli studi scientifici. Scusi, lei al suo ragazzo cosa dice? No, se ce l'hai? Non c'è, allora piano. E nel che cosa dice? No, non lo casi... fare, non lo fare perché sennò ti no, viene il tumore? No, basta fare prevenzione, basta. Vabbè, a parte la prevenzione, cosa no, dice? No, non si può fare troppo. Oh, lasci perdere la prevenzione, abbiamo capito, non faccia pubblicità a se stessa, non è quello il problema. Il problema è un altro. Lei che cosa dice al suo fidanzato? Mi venga incontro, cosa dice al suo fidanzato? Ma io di solito uso una Fisherman. Usa una? La Fisherman, io lo faccio con la Fisherman, lo cioè? Trovo più carino. Cioè? Mi piace quell'effetto di mentolo. No, non dico niente, io li pratico come praticano tutti quanti, io sto soltanto dicendo che non è una cazzata, nel senso che è vero, si può prendere il tumore praticando. Parenzo, tu conosci questa cosa delle Fisherman? Ah, è una figata, no, fatti fare un pompino con la Fisherman e sarà felice lei e tu. Parenzo. Ma io dico alla signora e a tutti quelli che ci ascoltano che c'è bisogno di un ritorno a una sessualità privata, non una sessualità pubblica. Ma non sono stato io questa volta. La signora lì ci ha chiamato da Torino e mi racconta che fai i pompini con la Fisherman. Ma pazienza. Ci vuole un ritorno. Ma lei mi ha chiesto come li fidanzato, come li fa, come faccio? Allora glielo ho detto. No, ma certo, ma io voglio dire al suo fidanzato. Un minimo di ritorno al privato. Oddio, non esiste il privato. Madonna, non esiste il privato, mamma mia, che rompe. Detto, quella che ah, volevo dire all'altro cretino lì parliamo? Che io sono figlia di un suicida, è uno che mi inneggia al suicidio come la cosa più bella del mondo, veramente mi ha fatto venire un po' il voltastomaco. Ma lei è la numero uno, scusa Alice, vorrebbe diventare ospite fissa della Zanzara, scusi un attimo. Ma guardi che io l'ho chiamata chiamata parecchie volte. Però adesso non che lei non si ricorda mai di me. No, vabbè, che devo fare? Scusi. Cosa vuole farci? Scusi, Alice, io però vorrei chiedere una cosa. Scrivo sempre anche su Twitter, ma non mi caga mai. Come si chiama lei, scusi? Mastroianni, adesso vediamo, andiamo subito a controllare. Love My Life? No, Love My Life è quella, la Minetti che fa l'igienista dentale, però non c'entra nulla. No, io sono sempre un igienista dentale, ma non sono... No, beh, quello no, quello non ha la voce come la Minetti. Scusi, signora Alice, io vorrei capire una cosa. Siccome lei dice che se ne frega e come dire, pratica attraverso la Fisherman, con la Fisherman, no. Dice che è importante la prevenzione, ho capito. Benissimo, però c'è anche il problema contrario. Cioè, il suo fidanzato o il suo amante o quello che è passeggero o fisso, ecco, in quel caso bisogna dire... Che, e che cosa fa? Che come consiglia? Purtroppo io ho avuto, sarebbe meglio non farlo. O comunque fare attenzione, fare controllo. Quindi, ma lasci perdere quello che si potrebbe. Però... La cosa concreta qual è? Che cosa dice al suo fidanzato di non praticare troppo? Non rispondiamo più perché sennò poi Parenzo dopo... No, ma Parenzo non... Portiamo l'intimi... No, ha ragione Parenzo, anche perché mi ascoltano un sacco di miei pazienti, quindi non è neanche carino. Poi dopo perché no? Magari... Perché già ho passato l'ultimo anno a subire battutacce per colpa di Miss Minetti. Dopo questo... immagini, ne passerà un altro anno. Ho capito, ho Alice, diciamo la verità. Ha ragione Parenzi, ho sbagliato io, assolutamente. Ha sbagliato lei, ma mi dica la verità. A fare la battuta è presa male, poi viene mal interpretata. No, ma però non trovo, amica, lei io ho chiamato per una cosa importante, perché voi siete una radio che ormai viene seguitissima, soprattutto per poi il giorno dopo parlare male di voi e di quanto siete stronzi, ma comunque se prima ero l'unica cretina ad ascoltare, adesso tutti i miei amici sembra che la seguano da prima di me, no? Sì. Quindi sono certa che la mia telefonata di stasera sono stata un'ora e mezza ad aspettare solo per questo, che davvero un'ora e mezza ad aspettare una persona, è vero che avete pagato voi, però non è carino. No, non è vero, ma sono certa che serva a fare informazione, perché vi segue davvero tanta gente e non dico che domani devono andare tutti, no, a parte che è il mese della prevenzione, Alice, me ne frego di questo mese della prevenzione, la cosa però, che voglio capire è lei che col suo fidanzato può venire anche a lei, le cause principali sono fumo, alcol, scarsa igiene e poi? Sono le concause. Allora, io dico una cosa, signora Alice, io voglio capire, lei oltre a praticare, no, a fare i pompini con le Fisherman, no. Lei l'ha detto, oltre a fare il pompino con le Fisherman, lei dice al suo fidanzato, al suo compagno, al suo amante di non praticare il sesso orale perché altrimenti potrebbe venire il cancro, sì o no? Sì. Glielo dice? Sì. Cioè lei non si fa fare niente da quel punto di vista? Questa è un'altra risposta, è un'altra domanda. Lei mi ha chiesto che lo dico, certo che glielo dico. Io informazione, però quello se ne frega. Però se ne frega quello. Potrebbe essere, o potrebbe fare prevenzione. Cioè controllarsi, perché poi basta quello, perché un tumore anche in bocca, però, se preso per tempo si cura. È abbastanza bizzarro, Alice, che uno a un certo punto, prima quando sta lì pronto così, gli dice scusa, fermo un attimo, scusa, ti devo che ti viene il tumore in bocca. Esatto, sì, ti devo avvertire, cavoli, di, una, ti devo avvertire tutto, di una cosa. Ragione, è una cosa tremenda. Ragione, pubblicità, borsa, grazie Alice da Torino, ti abbraccio fortissimo, fortissimo. Love of my life. Le Fisherman, non vogliamo fare pubblicità, caro David, a prodotti... Diciamo le mentine. No, Fisherman, la signora, come si chiama? Alice, da Torino, igienista dentale. Beh, meglio usare quello del chewing gum, diciamo, no? Delle Big Bubble, magari, no? O delle... Esatto, bravo. Va bene, siamo qui, Donato dalla provincia di Varese, fra poco un ospite che è stato già una volta qui alla Zanzara, ci racconterà un po' di cosette sulla vicenda Fede, sulla vicenda Rubi, sulla vicenda Berlusconi, eccetera, eccetera. Donato, provincia di Varese. Salve, io volevo dire una cosa. Sì. Posso dare prova. Allora, in Italia il razzismo non esiste, sono tutte balle inventate dalle menti labili. E lì lei ne ha un grande rappresentante che si chiama Parenzo. In che senso, scusi? Perché in Italia non esiste il razzismo è un'altra storia. Il razzismo è un'altra storia. No, io la posso anche seguire in Italia. Ma come cazzo parla questo? Ma che ne so, è malato, che ne so. Donato, che c'ha lei? Come caspita parla quell'ometto lì piccolino lì? Io sto dicendo che adesso in Italia, che fa razzismo sulla bassezza come si fa su Brunetta? No, figurati. No, nel senso piccolo di idee, piccolo di non so, di etica. Di etica addirittura. In Italia non esiste il razzismo. Vabbè, Donato, abbiamo capito. Lei dice che non esiste il razzismo, cioè, non esiste. Vabbè, d'accordo. Poi voglio chiedere al signorino lì, no? Al signorino, sì. Negli ultimi 8 anni, sì. Io vorrei avere quanta trasmissione per far capire agli italiani in che situazione sono. Negli ultimi 8 anni sono stati ammazzati, proprio uccisi, con modalità efferate tutte diverse, più di 10.000 italiani. Sì. Voi vi rendete conto cosa significa 10.000 italiani? Ma scusi, in che senso? Non ho capito. Sotto le violenze degli stranieri. Sotto le violenze degli stranieri. Più di 10.000 italiani sotto le violenze degli stranieri. Negli ultimi 8 anni uccisi sotto le efferate violenze degli stranieri. E dunque? Per me questa, dal mio punto di vista, mettersi a parlare di vulva, di pene, di pesce... Vabbè, ma quindi sono affari nostri, Donato, se non le piace cambia radio, non ce l'ho. No, ma è tutto importante. Dunque? Però qualche volta, credetemi, dai... Parliamo un po' di questi 10.000 italiani uccisi. E dunque, lei, posto che la cifra sia quella, a quale conclusione... Non è questa la cifra. Non lo so, secondo me no, ma a quale conclusione vuole arrivare? Voglio arrivare che qualche volta i comunisti di cui fa parte Parenzo, sì, certo. Questi di sinistra, che sono a favore dei rapporti, che stiamo degli matrimoni gay, a favore dell'immigrazione. Tutto insieme. L'Italia... Lei ha fatto un grande minestrone, lo Ius Soli, i matrimoni gay, i comunisti. Non posso trattare nessun argomento a sé. Io sto dicendo che in Italia... Sì. Prima cosa... Parenzo, io ho fatto partire intanto, tu lo sai, no? L'Italia è un fazzoletto. Guarda, questo qui è come quello. Ma ascolta... È come quell'animale... Ma la metafora è questa, non si arrabbia. Io vorrei sapere, ma chi ti fa parlare? Ma chi è quell'idiota che ti fa parlare? Ma tieni conto, ma parlare e anche pagare. Ma lei ricorda quegli animali chiusi in gabbia? Quegli animali chiusi in gabbia? Ascolta a me, pirla. L'Italia che improvvisamente fallo parlare un attimo. Allora, ma quello parla sempre quell'idiota. Vabbè, allora parli però, Donato, oltre a insultare, allora, parli. L'Italia è un fazzoletto di terra, allora, ho capito. L'Italia è un piccolo fazzoletto di terra. Sì, sì. Insieme per un terzo di montagne. Io vorrei sapere, no? Sì. Quando tutti dicono sono a favore dell'immigrazione, prima cosa sono italiane, prima di mettere incinta una donna dal quale può avere un bambino, ci pensa 5 volte. Va bene, allora? Gli immigrati li fanno, mentre noi stiamo parlando, stanno ciullando per riuscire a instaurarsi in Italia. Sì, sì. Per cambiare faccia. Nessun italiano... Facciamone portare un'altra. Allora, noi vogliamo essere sostituiti da... Parenzo, ne faccio partire un'altra intanto. Sì, noi vogliamo essere sostituiti dall'Islam, non c'è dubbio. Noi vogliamo mantenere la nostra italianità. Se la prima guerra mondiale è stata fatta per ribellare l'Italia dagli austriaci, e sono morti milioni di ragazzi. Milioni, sì, certo. Certamente, adesso, sia di qui che dall'altra parte. Adesso invece... Come mai noi adesso ci facciamo così, in maniera così... Senza responsabilità, senza reagire, dice lei. Ci facciamo colonizzare. Come mai, Parenzo? Come mai? Provincia di Varese dove, Donato? Provincia di Varese dov'è lei? Legnano. Surrettiziamente. Arriviamo subito, grazie. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La zanzara stronza. È con noi Francesco Chiesa Soprani, buonasera. Buonasera Giuseppe, a voi. Come stai? Di nuovo. Sto bene, ho una grossa responsabilità perché andare in onda dopo Donato, spero di meritarmi questa opportunità. Perché... lasciamelo dire, sono 20 anni che mi chiedevo a cosa servissero delle caramelle così forti come le Fisherman. Hai capito? Sì. L'ho scoperto, quindi sono molto... Dimmi che ti sei messo a ridere almeno, ti è sfuggito un sorriso, in questo periodo sei troppo serioso, ti è sfuggito un sorriso o no? Sì. Vabbè, ma con te si sorride sempre, ci mancherebbe altro, è un piacere parlare con voi e ascoltare tutta la vostra trasmissione. Allora, Francesco Chiesa Soprani è un imprenditore, agente, stato, è ancora non sono riuscito a scoprirlo, ma comunque sì, è... un agente di star o presunte tali, ha ascoltato quello che Emilio Fede ha detto qualche settimana fa qui da noi alla Zanzara. Fede ha detto di non conoscerti, di non aver mai avuto a che fare con te, di non averti mai ricevuto in ufficio, eccetera eccetera. Allora, però, la domanda che voglio fare a Francesco Iaia Soprani, che tempo fa ci disse anche a me hanno offerto 2.500 euro al mese più o meno per stare zitto sull'affair Berlusconi, Arcore, notti di Arcore, vorrei capire innanzitutto una cosa. La prima è questa: tu che cosa hai in mano per dimostrare in realtà che qualcuno ti ha davvero offerto questi soldi? Ma innanzitutto premetto che in maniera molto molto veloce che Fede l'ultima volta non ha detto che non mi conosce, anzi ha ribadito che siamo amici, questo non l'ha mai negato. Io a te dissi che questa operazione la dividevo in tre momenti, e cioè il primo momento mi sono recato in ufficio da Fede a Milano 2 e abbiamo parlato di questa situazione e dell'aiuto che Fede mi poteva dare tramite l'avvocato Ghedini. Sì. Il secondo momento, che era un contatto telefonico a Padova con l'avvocato Ghedini dove è allo studio, e in terzo momento uno studio milanese di avvocati legati a Berlusconi che mi ha ricevuto per discutere. E ho sempre detto che di queste tre situazioni io potevo provare tranquillamente quanto sto dicendo. In che modo puoi provare? Allora, per quanto riguarda Emilio Fede, che al telefono con te ha negato, cioè ha detto: io non ho mai ricevuto Francesco Chiesa in ufficio da me per parlare di queste cose, al massimo al telefono lo posso aver consigliato di parlare con l'avvocato Ghedini. Sì. Io invece ho una registrazione ambientale, nel senso che il giorno che mi recai in ufficio dal direttore Emilio Fede, io registrai l'appuntamento. Perché? Non perché sono pazzo, perché nel 2007 venne inquisito per Valettopoli, fui prosciolto. Sì, no, questo l'hai già detto. Tu hai praticamente hai questa conversazione che hai avuto con Fede nell'ufficio di Fede, l'hai registrata? C'era il mio telefono acceso sulla scrivania e l'appuntamento è stato registrato. Sono 36 minuti di appuntamento in cui si parla del fatto che Emilio Fede avrebbe interagito con l'avvocato Ghedini. Ma per è una cosa gravissima. Perché no, gravissima? Non è una cosa gravissima. Ma scusami, Soprani, ma ti pare una cosa normale? Ma se ti invito a cena c'ho il terrore, cazzo, che registri. Ma voglio dire, ma di che stiamo parlando? Ma vai a un colloquio e registri le cose. Io stavo spiegando, mi ha interrotto Cruciani, che nel 2007... Ma è una roba pazzesca, dai! Fammi terminare il discorso, finire, poi puoi giudicare, eventualmente anche darmi contro. Nel 2007, per colpe non mie, per delle telefonate in cui... sei stato mese e mezzo e poi prosciolto, d'accordo. Perfetto, poi prosciolto. Da quel momento, quando mi recavo in appuntamenti dove sapevo che il contenuto eventualmente poteva essere dalla controparte travisato, mi premunivo avendo una copia di quello che dicevo e di quello che mi veniva d'accordo detto. In questa telefonata, in questa telefonata che cosa c'è sostanzialmente e soprattutto che cosa hai intenzione di fare con questa registrazione di 36 minuti? Allora, innanzitutto io non voglio fare nulla, perché se volessi fare qualcosa l'avrei già fatto, quindi volessi fare qualcosa, nel senso, vuoi renderle note in qualche modo, vuoi farle conoscere? Allora, nel momento in cui io dico che mi sono recato in quello studio e ho parlato di un argomento e qualcuno dice no, non è vero, tu menti, sei tra virgolette un coglione, un testa di puntini puntini, non sei mai venuto in ufficio da me, Parenzo ha ragione che magari non è la massima correttezza, ma io devo pure dimostrare che non sono un tra virgolette coglione. Ma la mia io potrei leggerti intanto un passaggio importante della telefonata, perché qualche secondo, perché noi non potremo in teoria, però tu leggilo come se fosse io posso anche postarlo sul mio Facebook, poi tu domani lo riprendi la telefonata. Ma che cosa vuoi fare adesso, Francesco? Tu vuoi diffondere l'audio di questa telefonata, di questo colloquio con Fede sul tuo profilo Facebook? Giuseppe, lo so che la vita non è un gioco e sono argomenti delicati e ci sono persone che stanno subiranno delle condanne per questi argomenti, però se Emilio Fede domani, dopo questa mia conversazione, ripete no, Chiesa non è mai venuto da me, io non gli ho mai offerto appoggio per quanto riguarda questa situazione, è normale che devo farla sentire o un giornale o a te o su Facebook. Senti un'altra cosa, Francesco, tu l'altra volta ci avevi detto che Fede parlò anche di rapporti sessuali esplicite da Berlusconi e Noemi Letizia, tu vuoi diffondere anche il testo l'audio di questa telefonata? non è la telefonata, è la stessa conversazione, è la stessa conversazione ambientale in cui parliamo di quello che io so, e per il discorso, come ho spiegato precedentemente, è che una TV australiana mi ha chiesto a me un'intervista, e poi una di queste è stata fatta per la TV australiana, sì, offrendomi un compenso. Se dicevo la verità, mettevo nei guai Berlusconi, Fede e compagnia bella. Quindi sono andato da Fede dicendo: direttore, io devo fare questa intervista, non voglio mettere nei guai nessuno, vi creo un problema. E Fede mi disse: guarda Francesco, visto che non è la procura, ma sì, è un'intervista, per 4 lire ti do una mano io, lasciamo stare la va bene, tu hai le prove di questa cosa qua, l'audio di questa telefonata, naturalmente non tutto 36 minuti, l'audio in cui Fede ti invita, sì, diciamo ti dice ti voglio dare una mano, ti metto in contatto con Ghedini, sì, eccetera eccetera, l'audio della sempre di questa telefonata, scusami se insisto sulla telefonata ma sbaglio, di questa conversazione in cui lui parla di questo rapporto tra Berlusconi e una miletizia, tu lo vuoi rendere noto, lo pubblichi dove? Io lo rendo pubblico, e a questo punto gli italiani mi sono testimoni. Ma quando lo faresti? Fammi finire, perché così vediamo veramente dove sta la verità. Vabbè, ho capito, però te lo dico Giuseppe, io lo rendo pubblico se domani il direttore Emilio Fede dirà: quello che dice Francesco Chiesa Soprani sono tutte bugie. In quel momento verrà postata la conversazione. Parenzo, ma non è una sorta di ricatto questo? No, non è un ricatto. Ma io questo voglio dire, aspetta. Cioè, voglio dire, se uno va, vuol dire amare la verità. Aspetta un attimo, Parenzo. Ma scusa, Chiesa Soprani, scusa. No, Chiesa Soprani. Vabbè, ma uno dei due. Quanta gente non mangiare Fisher? È uno solo. Chiesa Soprani, tutte queste persone qui. Comunque, signor Chiesa Soprani, ma adesso le sembra questo il contenuto esplosivo di queste telefonate? Sarà sicuramente una roba importante e notiziabile. Ma a lei, ma che razza di ambiente frequentate? Ma a me non viene neanche in testa che se vado a cena con Cruciani o con altre persone dico adesso registro, perché sennò poi qualcuno me la mette al culo. Cioè, ma voglio dire, è in generale che ho il traffico. Lei si chiama traffico. Beppe Grillo scatenato addirittura contro le riprese in piazza, dice a uno di togliersi dalle scatole, è una cosa incredibile, questa furia iconoclasta, questa furia è senza senso. Chi è adesso? Aspetta. Dov'è Soprani? Aspetta, ecco, sempre qua Soprani. Non se n'è andato. Poi è Chiesa Soprani, non Soprani. Chiesa Soprani, due cognomi, usiamoli, per l'unica cosa che mi è rimasta, il doppio cognome, se mi togliete pure quella. Stiamo trasferendo. Vabbè, non risponde. Chiesa Soprani? Rispondo al dottor Parenzo. Sì, veloce però. Nel 2006-2007, l'ex fidanzata di Emilio Fede, Dora Rutigliano. Sì, come fidanzata? La fidanzata del direttore Dora Rutigliano, ma questo si sa, non è un segreto. Ma il direttore chi? Ma lui dice di non aver mai avuto fidanzata, di essere sempre fedele alla moglie. Con Dora Rutigliano mi chiamava tutte le notti per risolvere i suoi problemi, che era triste, che la Dora l'ha lasciato. Comunque, questo è un altro discorso. Ma quante fidanzate ha avuto? La prossima volta. Quante fidanzate ha avuto il dottor Fede? Ma che io sappia, fidanzate due, il Raffaele Azzardo e Dora Rutigliano, più tantissime ragazze. Così amanti, cui, diciamo, amanti. Sì, maggiorenni, amanti con cui si divertiva. Ma che prove hai di questo qua, di questa roba qua? Gli racconti delle stesse ragazze? No, ma di questo sì, ho centinaia di messaggi, perché poi le ragazze le conoscevo, ma questo è probabilissimo, ma poi non c'è niente di male, il direttore no, può divertirsi con chi vuole, ci mancherebbe altro. Infatti sto ben dicendo, non qualcosa di morboso, questa Dora Rutigliano mi diceva: Francesco, quando vai in studio dal direttore, non rivolto a te Francesco, ma in generale il direttore registra tutto, sia a livello di video che a livello di audio. Addirittura. Quindi quando sei con me nella stanza attigua alla sua, al suo ufficio, lì a Milano 2, non parliamo di cose private, perché lui poi sente tutto. Ho capito. Senti, io non so Francesco, se questa cosa è vera o meno, però è per questo che mi sono premunito. Vabbè, non ti devi giustificare, hai registrato e basta. No, ho spiegato Parenzo. Francesco, scusami un attimo, ma tu hai portato delle ragazzine, ragazze, ad Arcore, anche insieme a Mora, Fede, eccetera, o no? No, le conoscevo quasi tutte. Ma le accuse sono giuste, secondo te, le accuse di induzione alla prostituzione? Dunque, quello che dicono i PM, a mio avviso, è tutto corretto e corrisponde al vero. Non c'è l'induzione, nel senso che il Lele Mola di turno non faceva questo per remunerare o per la prostituzione. Primo, perché i compensi che prendevano la ragazza quando tornava a casa da Arcore, il Lele Mola di turno, ripeto, questo poteva valere anche per me o chi per altri, non prendeva mai un euro, quindi quel compenso rimaneva alla ragazza. Che io sappia, quando non si percepisce un utile, è difficile poi riscontrare la prostituzione. Secondo i PM invece qualche utile lo percepivano, qualche vantaggio avevano da questo? No, era un vantaggio indiretto, nel senso, in questo caso, posso immaginare io, ma penso che corrisponda in realtà, Lele Mola aveva problemi economici e di fallimenti, e sappiamo tutti che ha ricevuto degli aiuti da Berlusconi, quindi per avere questi aiuti, logicamente dava un'altra forma di aiuto. Cioè tu dici in realtà che non facevano da intermediari? No, questo no, perché quando... c'ero in prima persona, quindi non so, portavo delle ragazze a fare il casting da Emilio Fede, poi queste ragazze magari uscivano con Emilio Fede a cena o in vacanza o magari altro, non è che io inducevo o obbligavo una ragazza a uscire con il direttore, è una sequenza logica in cui poi la ragazza decideva da maggiorenne cosa fare e cosa non fare. È quello che è successo lì, si organizza la cena per allietare il drago, come qualcuno l'ha chiamato, e poi le vergini sono loro che si propongono e si offrono. Certo che chi le porta moralmente, e mi ci metto anche io moralmente, sono delle persone che possono così, dunque, insomma, da un certo punto di vista tu salvi da questo Mora, Fede o no? Sì, Mora, Fede e Minetti, pur sbagliando da un punto di vista morale, li salvo personalmente da un punto di vista penale, perché ciò che hanno fatto, pur vero, a mio avviso non riscontra un reato penale per 7 anni, che mi sembrano effettivamente... questo lo vedremo. Francesco, grazie. Laura da Roma, buonasera Laura. Ciao. Laura? Pronto? Sì, dica. Pronto? Sì. Pronto, mi sente? Dica, sì. Senta, volevo dire una cosa. Sì. Ma, insomma, non c'è nessun pubblico ministero, visto che voi siete a favore dei pubblici ministeri, no? Ma nessun pubblico ministero che vi denuncia, no? No, vabbè. Comunque, ma in che io senso? Perché trovo ci dovrebbero... la vostra trasmissione delle volte molto trasgressiva, molto blasfema, e soprattutto scendete proprio in basso con i pettegolezzi di questo che ha parlato poc'anzi. No, scusi, perché ci dovrebbero incriminare? Scusi. Di fare il pettegolo alla radio, di parlare sempre del Berlusconi, delle donne, cioè, ma noi non ne possiamo più, ma proprio non ne possiamo più. Ma se un abbraccio fortissimo, a domani 18:30. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ringatto, che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.